Se passeggi tra i palazzi arrossati dal tramonto che si addormentano nella grande città, se ti lasci massaggiare dal verde del Regent's Park o se attraversi l'intera Camden Town, potrai vederla camminare e di sicuro ti innamorerai di lei, dei suoi occhi luccicanti per il chiaro dei lampioni che circondano Hyde Park. Due anni fa ha lasciato la Slovenia per lavorare in un paese dove non c'è la guerra, ora il sole la protegge e la riscalda ed il vento la carezza in Oxford Street, ma nella notte fa freddo e piove forte e lei apre il suo cassetto e tira fuori i suoi ricordi e lascia scendere una lacrima sulla foto di suo padre. Del tramonto, ancora più bella della luna che compare dietro ai monti, di mattina tra le lenzuola sorrideva ed ogni nuvola dal cielo scompariva. Quando era sera molto spesso parlavamo e sorridendo sussurrava: è strano, sai, due persone che si incontrano per caso, sono libri appena aperti.